24 mattino. Le 8 e 17 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. È il momento dell'economia. Soldi e dintorni. E dunque è il momento di Deborah Rosciani che ritorna. Eccoci qua, Deborah. Sì, ma non lo dire con questo tono. Basta. Allora, abbiamo visto su tutti i giornali, dal Sole 24 Ore, ma insomma sì, ne sono piene sono le pagine. Belle pagine, sì. TIM e Vodafone, i due maggiori gestori della telefonia mobile, hanno ricevuto una multa dall'antitrust di 500.000 euro per pratiche scorrette contro gli utenti. E insomma, una multa molto salata, Deborah. È una multa molto salata, è la più alta mai comminata dall'antitrust ad una singola società, e stiamo parlando di una questione molto importante, anche perché i due gestori citati detengono di fatto il duopolio nel nostro paese, coprono il 70% del mercato, e ricordiamo anche altre cifre che poi magari ci potranno aiutare anche ad articolare il nostro dibattito di questa mattina. Nel mercato di telefonia mobile italiano la maggioranza delle SIM sono prepagate, quasi il 90%, mentre all'estero è molto più alta la percentuale dei contratti con il canone fisso. Il nostro è il primo mercato europeo dei cellulari, ha una penetrazione del telefonino pari al 160% della popolazione, si piazza attualmente al primo posto al mondo, quindi possiamo capire insomma che business abbiano questi due operatori nel nostro paese. L'antitrust, dicevamo, è l'autorità garante del mercato, ha sanzionato TIM e Vodafone con una multa da 500.000 euro ciascuno per modifica unilaterale sistematica dei piani tariffari senza fornire adeguate informative al consumatore, una situazione che era stata denunciata la scorsa estate dall'Associazione dei Consumatori Altro Consumo. Ci ricostruisce questa vicenda direttamente il presidente Paolo Martinello, che saluta. Avvocato Martinello, eccomi. Benvenuto a Soldi buongiorno, e Dintorni. Buongiorno, grazie a voi, buongiorno. Tra l'altro ci aiuterà a commentare questa vicenda anche Sergio Antocico, che invece è presidente dell'ANUIT, l'Associazione Nazionale Utenti Italiani di Telecomunicazioni. Antocico, benvenuto anche lei a Soldi e Dintorni. Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori. Allora, Martinello, che cosa avevate scoperto la scorsa estate? Che arrivavano a milioni, circa 10 milioni di italiani, degli sms, anzi per essere precisi un sms, piuttosto criptico, in cui si faceva riferimento ad una variazione tariffaria, ma nello stesso tempo si diceva che c'era la possibilità di passare al nuovo piano tariffario con alcune chiamate gratuite, si faceva riferimento a un numero da chiamare o un sito da visitare per avere maggiori informazioni, diciamo un messaggio che sembrava più promozionale che contrattuale, se così posso dire, e in realtà comunicava che a partire da una certa data, dal 9 settembre inizialmente, poi spostata di alcune settimane, sarebbero cambiati i piani tariffari di circa una decina di milioni di utenti italiani. Sono circa 8-9 piani tariffari particolarmente vecchi e quindi anche particolarmente convenienti, esatto, a cui gli utenti erano molto affezionati, diciamo così, e che però venivano modificati appunto unilateralmente. Ora il problema non era la modifica della condizione contrattuale, quanto la modalità con cui questa veniva comunicata agli utenti. La legge su questo non è chiarissima, però dice che è possibile una modifica con preavviso di almeno 30 giorni, a patto che venga comunicato, oltre che naturalmente la nuova tariffa, anche il diritto di recedere dal contratto gratuitamente, il diritto di trasferire l'utenza e il numero presso un altro operatore e di mantenere il credito residuo e quindi tutta una serie di informazioni importanti, come dice l'antitrust, per consentire al consumatore di fare una scelta informata. Tra l'altro, un'altra questione in questo caso, infatti, da qui la sanzione, il procedimento e la sanzione. Tra l'altro un altro aspetto che ha originato anche le dovute attenzioni da parte delle associazioni dei consumatori rispetto a quello che stava accadendo è che c'era una, come dire, tempistica parallela nell'iniziativa da parte dei due operatori. Per la verità denunciato anche questo, ma questo aspetto giustamente l'antitrust non l'ha considerato in questo procedimento, perché questo procedimento si è basato sulla legge sulle pratiche commerciali sleali e scorrette, che è la pubblicità, che principalmente, ma anche casi come questo in cui non si tratta di un messaggio pubblicitario ma proprio di un comportamento dell'operatore, e quindi una procedura anche più semplice da molti punti di vista, le indagini sono meno complesse di quelle necessarie per accertare un'intesa vietata o un abuso di posizione dominante, quindi anche per una ragione di celerità abbiamo questo nuovo strumento in Italia, come che esiste in tutta Europa, è una direttiva comunitaria sulle pratiche commerciali sleali che è stata ancora una volta applicata correttamente dall'antitrust. Sì, infatti l'istruttoria è stata chiusa, mi sembra di capire, in tempi anche abbastanza rapidi, 3 o 4 mesi. È iniziata ottobre, settembre, quindi praticamente in pochi mesi, indubbiamente. Sempre tanti, se posso dire, perché poi in realtà noi speravamo che l'antitrust, come è possibile in certi casi, intervenisse anche con un provvedimento temporaneo urgente per sospendere questo processo di modifica delle tariffe, il che avrebbe evitato che milioni di consumatori pagassero importi relativamente modesti, parliamo di 50-80 euro a testa in più, però globalmente stiamo parlando di centinaia di milioni di euro. Infatti la multa rispetto in realtà agli introiti, ai fatturati poi che le società in questione hanno incassato in questi mesi, credo che sia assolutamente non proporzionata. Sergio Antocicco, che appunto rappresenta anche in qualche maniera le grandi utenze industriali, come valuta questa questione, questa multa? Sicuramente una questione importante, però c'è da dire anche che le società adesso si muoveranno, hanno già deciso di contestarla, noi le abbiamo invitate questa mattina, hanno gentilmente declinato l'invito. Antocicco, lei come vede questa questione? Ma io ho visto quei messaggi, quel messaggio che era arrivato tra l'altro in agosto, quindi in un periodo anche sotto l'ombrellone, le persone non erano neanche in grado di poter di vedere, indirizzati ai piani vecchi che erano spesso usati da persone un pochino meno giovani e quindi meno anche capaci di andare a leggere un messaggino, tra l'altro, e comunque c'era indubbiamente questa sproporzione tra la richiesta che l'utente fa all'operatore, che deve avvenire con raccomandata, con ricevuta di ritorno, e quella che l'operatore ha fatto al cliente con un semplice SMS. C'è da dire che uno o due forse dei piani che venivano aboliti, ma effettivamente era un vantaggio anche per l'utente che venissero aboliti, perché erano più costosi di quelli nel frattempo disponibili, però molti altri era un po' questa, il cavallo di Troia col quale si eliminavano degli altri piani che invece consentivano una spesa più bassa. Beh, certo. E quindi da questo punto di vista il vantaggio era soprattutto per che sia una condizione peggiorativa o migliorativa, comunque l'idea è che l'utente sia sempre in grado di sceglierla consapevolmente, qua ci sembra questo è fondamentale. La trasparenza è uno dei requisiti fondamentali e in questo caso credo che non ci sia stata un'adeguata trasparenza, e quindi l'azione dell'antitrust mi sembra che sia stata conseguenziale e perfettamente corretta. Ecco Antocicco, le associazioni dei consumatori si stanno già muovendo, indicando ai consumatori come muoversi per avviare delle iniziative per chiedere il rimborso di quanto pagato magari eccessivamente in questi mesi e soprattutto non consapevolmente, visto che le società appunto di telecomunicazioni hanno avviato questi aumenti in maniera unilaterale. Ci sono molte strade che si possono seguire, noi ne abbiamo parlato anche dai microfoni di Soldi e Dintorni, per esempio la giustizia alternativa, la conciliazione, i core. Come lei suggerirebbe di seguire queste strade, di avviare anche pratiche di questo tipo per così contestare quanto le società hanno fatto? Ma diciamo che lo chiedo anche rapidamente a Martinelli, sì. Perché poi alla fine certe operazioni hanno dei costi anche loro, e il problema è che bisogna un po' valutare se il ritorno può valere questo costo per gli utenti. Diciamo che da questo punto di vista si potrebbe invece pensare a un rimborso automatico che viene dato sotto forma ad esempio di credito, quindi senza neanche diciamo un esborso vero e proprio da parte degli operatori, per indennizzare in qualche modo gli utenti che hanno dovuto supportare dei costi, degli oneri non previsti. Martinello, potrebbe essere sono d'accordo. Ecco. Sarebbe importantissimo che ci fosse un meccanismo di rimborso automatico, anzi io confiderei che per una volta le imprese in Italia, oltre che ricorrere ai TAR e contestare sempre tutto e comunque, anche per nel loro interesse, della loro immagine, decidessero di attribuire dei rimborsi, anche magari non integrali, ma insomma in qualche modo si facesse una sorta di conciliazione collettiva, perché un'avvertenza del genere gestita a livello individuale è assolutamente improponibile, qualunque sia la sede, compreso le sedi alternative. Noi diciamo che questo però è anche un esempio assolutamente emblematico di cosa potrebbe essere la famosa class action. Cioè quello che è ancora impantanata in Parlamento. Abbiamo una petizione in corso sul sito di Altro Consumo a cui invito tutti ad aderire, perché questa forse è la reazione più costruttiva in questa situazione, rilanciare questa iniziativa parlamentare perché finalmente ci sia anche in Italia uno strumento che consenta di affrontare proprio questo tipo di casi. Infatti, in cui a livello individuale si può fare veramente esattamente poco. Così. Grazie a Paolo Martinello e a Sergio Antocicco, presidente dell'ANUIT, a Martinello invece presidente di Altro Consumo. Chiudiamo qua questa questione, ci ritorneremo indubbiamente. Alessandro. Sì, perché è molto sentita, visti i messaggi che stanno arrivando. Alle 12? Alle 12 incentivi auto, elettrodomestici e mobili, c'è l'Instant Book con tutte le istruzioni per l'uso che esce oggi con il Sole 24 ore, ne parleremo anche noi. Bene. Le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle ultime notizie. A spoglio quasi concluso, Ugo Capellacci del Popolo della Libertà è il nuovo governatore della Sardegna, sconfitto Renato Soru, presidente uscente del Partito Democratico, il distacco è di circa 9 punti percentuali. Ancora una notizia di violenza ai danni di una donna, un romeno di 31 anni è stato arrestato con l'accusa di avere violentato un'anziana non vedente di 83 anni in provincia di Pavia. Intanto sono stati identificati due rumeni presunti autori della violenza ai danni di una coppietta a Roma e nel decreto in arrivo sembra tramontata l'ipotesi di istituire le ronde dei cittadini. Si è dimesso il ministro delle finanze giapponese Nakagawa, che nella conferenza stampa conclusiva del G7 a Roma si è presentato apparentemente ubriaco. Il ministro ha smentito ma ha annunciato le dimissioni. Infine il calcio rischia di costare caro ad Adriano il gol segnato con un braccio domenica nel derby. Oggi il giudice sportivo esaminerà il fatto con la prova TV e deciderà se squalificare l'attaccante brasiliano. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, proprio dedicato al Giappone, all'economia giapponese. Sentiamo. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Quella del Giappone è la seconda economia al mondo e probabilmente quella che sta peggio. Il prodotto interno lordo è diminuito nell'ultimo trimestre del 2008 del 3,3%, a un ritmo annuo superiore al 12%. La caduta più forte dagli anni 70. L'economia di Tokyo si regge sulle esportazioni, che sono cadute, e anche colossi come Toyota e Sony sono costretti a licenziare. Ma può contare sul risparmio, sugli investimenti esteri e su un paese ordinato, meno il suo governo per la verità e ancora meno i suoi ministri. Quello delle finanze, Nakagawa, è stato costretto stanotte a dimettersi, molto criticato per il suo comportamento alla conferenza stampa di Roma che ha seguito i lavori del G7. La voce impastata e l'aria assente. Aveva bevuto o era colpa delle medicine per il raffreddore? Forse conosceva in anticipo i dati pessimi sull'economia del suo paese e ha bevuto un po' per tirarsi su. I suoi colleghi ministri delle finanze di altri paesi, certamente sobri, sono apparsi a Roma ugualmente assenti e disorientati. Buona giornata. Grazie a Ferruccio De Bortoli. Le 8:36 minuti, voglio salutare il ministro alla funzione pubblica, o meglio per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta. Buongiorno ministro. Buongiorno a voi. Senta, non le voglio far partire ma la notizia del giapponese che si è dimesso, insomma, se l'economia è in queste mani, no, mondiali. Passiamo oltre. Diciamo. Passiamo oltre. Ministro, mi pare che oggi lei voglia presentare in una conferenza stampa i dati dello sciopero di 3 giorni fa della CGIL, perché ci sono sempre queste guerre di cifre che io non ho mai capito. Queste da quando sono nato c'è la guerra di cifre. Ci può anticipare i dati ufficiali? Ma, vede, penso che siamo un paese poco serio. Giochiamo sui numeri, tutti sanno che si bara e si fa finta di crederci. L'altro giorno leggevo sul Corriere della Sera 700.000 in piazza con la CGIL. Perché un giornale serio come il Corriere della Sera accetta una cifra palesemente fuori misura? I calcoli ufficiali erano meno di 50.000. inganna i propri lettori, prende in giro i propri lettori, ma dico il Corriere della Sera per dire tutti gli altri sì. giornali che accettano senza la benché minima critica i dati che vengono dagli organizzatori. Gli organizzatori ovviamente sono come gli osti, hanno certamente sempre buon vino, ma questo mi sembra abbastanza normale e anche giustificabile. Però ci dovrebbe essere qualcuno che misura. Esistono misure già predeterminate, cioè si sa quanto sono estese le piazze, si sa la densità, ci sono i satelliti, basterebbe che un giornale, una televisione dicesse secondo le nostre ricostruzioni in piazza c'erano 47. E il Ministero che dice? Ecco, il Ministero i dati ce li può anticipare? Allora, noi li abbiamo ufficialmente, e cioè in ragione delle trattenute che si devono fare in busta paga, noi abbiamo in tempo reale le assenze per sciopero, non le assenze per malattia o per altro, ma le assenze per sciopero. E siccome io questi dati li do in tempo reale man mano che arrivano, e vengo di volta in volta svilaneggiato, offeso dagli scioperanti di turno, chiamiamoli così, dicendo che non è vero, dico il falso, eccetera eccetera. Mi sono stufato e oggi presento i dati analitici. Ce li anticipi? Dica una cifra, Ministro, ci dica una cifra in anticipo. 7,81. 7,81. Ecco, e no, ma aspetti, ma do anche la cifra dello sciopero precedente, quello del 12 di dicembre, che era leggermente più alto. Sì. Dati analitici. Dopodiché voglio verificare chi ha dati diversi, me li dica, li confrontiamo. E poi non ne parliamo più, però. Ministro, quando è stato approvato alla Camera il DDL di riforma della pubblica amministrazione, cosiddetto il DDL Brunetta, le ha parlato, ecco, è una rivoluzione. E in cosa consiste in 30 secondi questa rivoluzione? 30 secondi vuol dire trasparenza, cioè la funzione pubblica sarà totalmente trasparente, standard, dovrà tutti quelli che producono beni e servizi pubblici dichiarare gli standard, in quanto tempo ti do questo certificato, in quanto tempo ti do questa TAC, in quanto tempo ti do questo altro certificato piuttosto che servizio, eccetera eccetera. Poi ci sarà il controllo da parte dei cittadini, la customer satisfaction o la class action, chiamiamola come vogliamo, e cioè i cittadini controlleranno gli standard, e ci sarà la valutazione dei cittadini, la valutazione da parte di un'apposita authority indipendente che valuterà gli impiegati pubblici, che valuterà i funzionari. Insomma, se non è il mercato ci andiamo vicino. Però, Ministro, sull'opposizione, per esempio i consumatori, sulla class action dicono è uno strumento così svuotato perché sarà tendente al ripristino del servizio degli standard, ma non ci sarà un risarcimento da parte dei cittadini. Non conosco le organizzazioni dei consumatori. L'opposizione la conoscerà, l'opposizione. No, lei ha detto l'opposizione e i consumatori. L'opposizione fa la stessa critica, però la classe allora, l'opposizione mente sapendo di mentire, perché fin dall'inizio avevamo detto che per ragioni ovvie non ci poteva essere risarcimento. Inutile che mi vengano a criticare sul fatto che non c'è risarcimento quando si sapeva fin dall'inizio, ma le dico una cosa più divertente. Ma non è uno strumento un po' svuotato così senza risarcimento? Ma assolutamente no, ma le dico una cosa più divertente per cui l'opposizione non avrebbe diritto di parola. Quando Prodi fece la sua class action per il settore privato, escluse il settore pubblico e nessuno alzò la voce. Allora, io ho cominciato dal settore pubblico. Ecco, e di questo direi non è più il caso di parlare. L'opposizione non ha alcun titolo per rivendicare qualsivoglia primogenitura sulla class action nel settore pubblico. Senta, per quel che riguarda sostanzialmente l'innovazione, la trasparenza, lei sa che molti suoi predecessori hanno detto, sono un po' cozzati su questo. Lei ha anche detto io mi dimetterò, credo, un anno fa più o meno, quando assolutamente quando... Sì, cioè c'è una data nella quale io ho giurato il giorno 8, quindi ho già fatto un check a 8 mesi, ho presentato i risultati della mia azione di governo a 8 mesi, poi la presenterò a 10, poi a 11, poi a 12. Si verificheranno i risultati, dal contratto di lavoro realizzato all'assenteismo, ai distacchi sindacali, alle consulenze tagliate, alla riforma approvata, ai decreti delegati che saranno per allora approvati, all'authority, alla trasparenza, alla valutazione, all'e-government, al taglio della carta. Mi fermi perché sennò... Sì, la fermo. Senta, lei mi ha detto 7,81% lo sciopero, però del 12 dicembre non me l'ha detto. Era un po' punto, più alto. Un punto e mezzo, no, perché lei non me l'ha fatto dire. Un punto e mezzo in più. lo dica. Un punto e mezzo in più. Fermarla è quasi impossibile. Si figuri se non glielo faccio dire. Che vuol dire che da uno sciopero all'altro... Anche su cifre basse la partecipazione allo sciopero continua a diminuire. E lei che ci legge in questo? La sua visione però è parziale, lo dico, non c'è la CGIL. Io amo la libertà sindacale, io amo il diritto di sciopero, penso sia una cosa fondamentale nelle relazioni sindacali, non ci leggo assolutamente niente, do solo il numero giusto. Voglio dire, perché ha visto anche il presidente di Confindustria Marcegaglia riavvicinarsi a Epifani, insomma, sul rinnovo del contratto. Ma guardi, almeno le immagini sono state anche quelle, insomma, le immagini. I sindacati sono il sale delle relazioni industriali. I sindacati al plurale? Certo. E con la CGIL proprio non andate d'accordo? Non, guardi, io faccio il mio mestiere, la CGIL faccia il suo. Se poi, facendo il suo al 7,81 di partecipazione allo sciopero, dovrà fare qualche considerazione. Senta, Ministro, ancora un minuto. Qualcuno ha detto nel mille proroghe c'è la possibilità data al Ministro, quindi in questo caso a lei, al Ministero, di valutare caso per caso chi avrà gli incentivi per merito nella pubblica amministrazione. È di fatto così, insomma, l'ho molto semplificata. Secondo lei questo è lo strumento giusto? Cioè il Ministero che deciderà chi, o il Ministero tramite gli organismi ovviamente, poi deciderà chi è più bravo, chi merita di più? Non so dove l'abbia trovata questa cosa del mille proroghe, mi sembra totalmente balzana. Esiste un disegno di legge delega, esiste un'authority, l'authority provvederà alla definizione degli standard, provvederà alla valutazione, authority indipendente, si metterà tutto online, si metterà tutto in orizzontale, vale a dire si vedrà dalle Alpi all'Ilibeo per la fornitura di una TAC piuttosto che di un certificato catastale chi ci mette quanto e si trarranno le opportune conseguenze, i cittadini saranno chiamati a giudicare. Io faccio queste cose e le faccio così. L'ultima battuta è sull'emergenza, insomma, che ha visto, sta arrivando un decreto, non è proprio strettamente il suo tema di intervento, ma l'economia e la pubblica amministrazione, ma insomma le violenze che stanno arrivando, la questione delle ronde, mi pare di aver capito da una battuta che lei è totalmente contrario all'ipotesi. Io sono perché tutte le forze di polizia e di sicurezza vengano coordinate al meglio, al massimo. Troppi corpi di polizia, tutti fanno tutto su tutti i territori, c'è qualcosa secondo me che non va e che potrebbe essere certamente migliorato o con specializzazioni territoriali o con specializzazioni tematiche, chiamiamole così. C'è un'area di efficienza da recuperare enorme, questo è il primo punto. Secondo punto, io ho detto che mi piace la ronda di notte di Rembrandt a Amsterdam e mi piace solo quella. Va bene, la ringrazio per essere stato con noi, Renato Brunetta, Ministro della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione. Le 8:47 minuti, entro febbraio arriverà un'ordinanza del Ministero del Welfare per togliere le cosiddette razze pericolose. Sapete, c'è una lista di cani considerati più mordaci, più pericolosi, sono circa 31 credo dai precedenti ministeri. Il sottosegretario Martini ha detto: il principio è chiaro, non esistono razze di cani più pericolose delle altre, il problema sta nel manico, sempre nei padroni, in come li si gestisce, in come li si educa i cani, in come li si addestra. Raimondo Colangeli è veterinario, presiede la Società Italiana di Scienze Comportamentali Applicate, che dice, d'accordo? Chiaramente sono d'accordo. Io vorrei cambiare un attimo l'ottica della domanda, sì, perché sennò noi non focalizziamo bene il problema. Il problema è che noi vogliamo diminuire le aggressioni. Allora, se noi togliamo le razze, i dati dall'estero di quello che è stato fatto finora togliendo le razze, abbiamo diminuito le aggressioni? No, è questo il concetto a cui dobbiamo arrivare. Allora, quello che dobbiamo fare è fare prevenzione e dobbiamo creare dei cani che con il rapporto con i proprietari siano più socializzati e vadano meno incontro a comportamenti di aggressione. Quindi addestrarli meglio, responsabilizzare, sì, allora, i padroni. Allora c'è anche il concetto di addestrarli, esatto, il concetto è creare dei cani che non abbiano già patologie comportamentali, per cui che siano allevati in un modo corretto, che siano valutati in un modo corretto, per esempio i cani presi dai canili. Dopodiché bisogna formare dei proprietari che devono essere responsabili del cane che andranno a prendere. Certo. E in ogni caso, a seconda del cane che loro andranno a prendere, dovranno in ogni caso svolgere un'educazione, nel senso una socializzazione nei confronti delle persone, degli altri cani e degli altri animali. Questo sicuramente. No, ma è stato chiarissimo. Io però vorrei una posizione ben diversa, è quella che esprime il senatore Andrea Fluttero del Popolo della Libertà, che saluto. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei. Tra l'altro voglio ricordare, so che è stato, questo lo dico come premessa perché ieri me l'ha detto, è stato sindaco di Chivasso e so che mi ha detto ha fatto il canile, ha avuto 5 cani in vita sua, adesso ne ha 2. No, ne ha avuti molto di più. Ne ha avuti di più, è arrivato. Ne avevo 5, adesso ne ho 2. Solo 2. Non sono certamente una persona che non ha mai cani, è cresciuto in campagna, ha mai cani eccetera, però ha fatto una proposta di legge, un disegno di legge che vieta di allevare, vendere, acquistare e addirittura leggo anche sterilizzare le razze considerate pericolose. Perché allora esistono, secondo lei? Esistono razze che a parità di aggressività con altri cani, nel momento in cui aggrediscono per vari motivi possono avere effetti devastanti, e purtroppo la cronaca è piena di queste situazioni. Quindi io concordo assolutamente con quanto dice il veterinario che ha parlato prima, che è una questione di educazione, di formazione, di responsabilità dei proprietari. Ciò detto, se io elimino, cioè non produco più, non creo più, il veterinario prima parlava di creare, giustamente, perché i cani li abbiamo creati noi selezionandoli. Allora se io non creo più alcune razze che nel momento in cui decidono di aggredire per vari motivi sono devastanti per i bambini, per gli adulti, riduco i pericoli. Cioè lei dice, è vero che è sempre dipende dal padrone, però ci sono dei cani che hanno una forza fisica. Guardi, sono... io credo che anche il veterinario che parlava prima dovesse avere un cane di queste razze particolarmente pericolose, con tutta la sua attenzione, con tutta la sua sensibilità nell'educarlo e nel crescerlo. Il giorno che questo cane per qualche motivo gli esce dal giardino per qualsiasi motivo, potrebbe, aggredendo, provocare dei danni devastanti su altre persone. Allora io credo che, non essendo, come dire, necessario avere cani di quel tipo, perché faccio l'esempio del dogo argentino, mi pare fosse stato selezionato per difendere le fattorie dai puma. Oggi in Italia non abbiamo puma che aggrediscono fattorie. Se io ho piacere di avere un cane da compagnia, è giusto che io possa averlo, non è giusto che abbia un cane che potenzialmente può rovinare un'altra persona. Come dire, il limite della mia libertà sta nel punto in cui la mia libertà non nuoce agli altri. Detto da uno cresciuto tra i cani. Ben vengano i cani, però se possibile riduciamo il numero di quei cani che nel caso in cui dovessero aggredire possono essere devastanti. E dell'ordinanza della Martini, che dall'altro è la sua collega di governo. Martini ha, intanto purtroppo non è mia collega di governo perché lei non è governo. Nel governo, volevo dire di coalizione, no, di Parlamento. Sì. La Martini ha posizioni diametralmente opposte alla mia. Io ritengo in Parlamento di rappresentare quei milioni di italiani che, pur amando gli animali e i cani, ritengono che non sia giusto, perché il vicino di casa decide di tenere cani di questo tipo, o il vicino di condominio, o nei giardini pubblici con i bambini, eccetera, non vogliono mettere a rischio la salute dei loro cari e loro stessa, perché altri cittadini hanno piacere di appagarsi con un cane di quel tipo. Allora, tutto presidente lì. Colangeli, e vorrei che potessimo discuterne in Parlamento e non andare avanti a colpi di ordinanza di tipo amministrativo. Ma l'ordinanza è attesa entro fine febbraio, questo ha detto il sottosegretario Martini. Presidente Colangeli, effettivamente il senatore Fluttero dice, il problema è sempre giustamente l'educazione del padrone, l'addestramento, però può succedere una distrazione, può succedere che il cane esca, che il cane sfugga di mano, e allora laddove è un cane che è un cane, insomma, che fisicamente si fa sentire quando morde, e allora dice perché non limitarlo, ecco. No, allora ribadisco il concetto, ha ragione il senatore Fluttero nei suoi pensieri, il problema è che parla di fisicamente, il problema è proprio questo, cioè e che il cane fugga, è proprio questo. Cioè, ma può capitare, una, voglio sono dire... cani, allora, non parlo perché io non so nulla di questa situazione del cane di Genzano. Il problema è che però ritornano non tanto il concetto di alcune razze, ritorna sempre il concetto di cani che erano isolati, che avevano fatto dei corsi di addestramento, che si trovavano in un giardino e che non avevano socializzazione con nessuno e che incontrano un bambino di 11 mesi, di 7 mesi, come è successo quello di Torino, e hanno aggredito, perché erano cani non socializzati. Io il problema, se la mettiamo sul peso, e allora non c'entra niente le razze, è un problema di peso. Ritorno invece a un altro concetto su cui ha assolutamente ragione il senatore Fruttero, che noi siamo stufi abbastanza dell'ordinanza e che stiamo appunto preparando il progetto di legge da presentare in Parlamento, dove correttamente un parlamentare come il senatore Fruttero potrà dire la sua, e con gli emendamenti modificare e bisogna, bisogna però sì, bisogna fare un po' in fretta perché, ripeto, entro fine febbraio pare attesa l'ordinanza. Comunque io su questo tema tornerò, perché è un tema molto sentito, leggo anche dai messaggi, e poi appunto arriverà l'ordinanza, chissà, il sottosegretario Martini ce la spiegherà magari quando sarà il caso, quando sarà emessa la vedremo. Per il momento ringrazio Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli in redazione e Peter Bescapè in regia. Tra poco Giuliano Ferrara parla della Sardegna, del voto in Sardegna. Ci potete scrivere 24 mattino @radio24.it e ci ritroviamo domani.